Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Magazine, 8:05 minuti, ci hanno tenuto compagnia per il weekend e oggi in maniera molto atipica anche con i magazine iniziamo parlando di calcio, chi l'avrebbe mai detto, eh? Eppure la microsensazione, la storicità, la ricorrenza, l'emozione, l'importanza e per così dire è quello che ha donato una parte di storia anche attraverso lo sport che potremmo definire un altro calcio, ovviamente, quindi dimenticate tutto quello che viene riportato dalle cronache per quanto riguarda i giorni nostri e facciamo un salto indietro, uno piccolo da parte mia, uno molto grande per quanto riguarda la storia. Come ben sapete la mia formazione è votiva, la mia formazione avviene all'interno di questi atenei silenziosi che sono depositi delle memorie. Sì, vi parlo di quello che è architettura, di quello che è storia, che è letteratura, che è un'educazione civica, che è un ascolto, che è una spiritualità. E in questo caso vi parlo di sport, in particolare di calcio. A 75 anni, esattamente è stato sabato 4 maggio 1949, 4 maggio 2024, quindi a 75 anni dalla tragedia di Superga, di cui ovviamente io ne ero al corrente, sì, ma chi non lo è, anche chi non è appassionato di calcio, no? Abbiamo vissuto il grande Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa, che ha avuto un percorso importante. Subito dopo il grande Torino, 1949, è un anno anche abbastanza così di ricostruzione, no? Seconda guerra mondiale terminata, ancora diverse le fazioni, ancora un paese in difficoltà, un paese che ha riportato insieme alle difficoltà anche una grande paura. Per me è incomprensibile che il calcio, che una vittoria dei mondiali, che tutto ciò possa riunire, per me dovrebbero essere altri i motivi. Però tant'è. E poi soprattutto mi viene da pensare che in un'altra epoca vi era anche un altro calcio. Intanto siamo su Alias, edizione del sabato a pagina 10. Omaggio al grande Toro. Significati del cordoglio della tragedia di Superga avvenuta il 4 maggio 1949. Sono in quel di Loreo a 15 minuti dal cimitero di Chioggia, quindi comincio a leggere questo articolo e con il tempo, seppur con un passo più breve, ritorno ai miei studi nei depositi delle memorie. Ho curato per 5 anni il cimitero di Chioggia e quando ho visto queste lapidi, questi monumenti e questi due ragazzi giovanissimi che rispondevano a nome di Aldo e Dino Ballarin, sopra lo scudetto con il tricolore, alcuni scudetti sdrucciti con il colore granata della squadra clodiense e nello stesso tempo anche con il colore granata del Torino, certo. La mia ignoranza calcistica mi portò dai custodi a chiedere e loro mi dissero: ma come, questi sono i fratelli Ballarin, sono morti nella tragedia di Superga. Allora io, quando passavo davanti o per controllare che tutto fosse a posto, a partire dall'ordine, dalla pulizia, dall'attenzione, sapete, non mi occupavo solo di luci, per motivi personali andavo anche oltre, beh, guardavo questi due ragazzi, no? E mi immaginavo dei campioni forti, fieri, eroici, come i calciatori che adesso, con tutti i loro difetti, i loro vizi, anche allora immaginavo questi semidei allo stesso modo. Non è andata esattamente così, No. È una partita amichevole, si svolge a Lisbona. Il grande Torino viene invitato perché appunto è una squadra dominante, fortissima. e di rientro purtroppo un tragico errore del pilota porta allo scontro e perderanno la vita tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri. I passeggeri sono questi eroi e come ho detto che io mi immaginavo, no, queste forze, queste... Beh, sappiate che c'è stata un'interruzione al Parlamento 4 maggio 1949. Nei lavori del Parlamento ci fu un'interruzione e subito ovviamente il cordoglio che arrivò alle famiglie e soprattutto fu istituita una cassa speciale per dare un risarcimento a queste famiglie. Io già da lì rimango un po' perplesso e poi continuo nel leggere l'articolo e scopro che molti di loro, soprattutto la famiglia Ballarin, vivevano nell'indigenza, vivevano in una situazione non certo agiata. La famiglia ovviamente è di Chioggia, loro sono sepolti a Chioggia, le spoglie mortali riposano in quel di Chioggia. Tra l'altro lo stadio Ballarin di Chioggia è vicino al deposito delle memorie. È una storia nella storia, già di per sé, come ho detto, questi eroi che immaginiamo, no, e che vediamo nelle cronache di tutti i giorni, beh, sono due ragazzi normalissimi, sono due ragazzi che tra l'altro vivono con degli aspetti economici di difficoltà. Aldo è un difensore, ha 27 anni, è più affermato, è un titolare. Dino è il terzo portiere, pensate, il terzo portiere, una passione per il calcio, addirittura era il primo ad arrivare agli allenamenti, preparava l'attrezzatura, preparava le divise da gioco, preparava i palloni, si allenava da solo ed era anche non solo l'ultimo ad andar via, ma si fermava a sua volta per completare l'allenamento, per prepararsi, per migliorare, perché lui, 25 anni, è il terzo portiere della formazione più forte d'Europa. Arriva l'invito per questa amichevole e quindi Aldo va alla dirigenza, va dall'allenatore e dice: io vi chiedo un favore enorme, non chiedo di farlo giocare titolare, non ha mai giocato una partita, non ha mai visto il campo, ha 0 partite, non ha mai avuto una presenza. E voi non avete idea del suo impegno, di quanto lui possa... Non chiedo di farlo giocare titolare, fatelo partire con noi questa volta come secondo portiere, per una volta. Beh, talmente un caro ragazzo che sì, lo prenderemo con noi. Questa volta non sarà a casa come riserva supplementare, ma arriverà a Lisbona. Da Lisbona non tornerà più indietro. Arriverà, certo, non giocherà perché è il secondo portiere, però finalmente è con i ragazzi della prima squadra. E pensate che il secondo portiere ufficiale è un po' arrabbiato, dice: ma pensa a te, è partito quel ragazzo che non ha mai visto il campo al mio posto. Beh, si è salvato la vita in questo modo, pensate il destino quant'è beffardo. E Dino Ballarin, che non ha mai visto il campo, ha trovato appunto un tragico scontro che ha interrotto una carriera che non è mai iniziata, che è stata solo portata, solo tra virgolette, portata avanti da un grandissimo entusiasmo, da una voglia e anche da una povertà, da una situazione di disagio. Resta la sua forza nell'immagine che c'è sopra la lapide, questo sguardo fiero, eroico, sicuro, al fianco del fratello che è stato battuto solo dalla tragica crudeltà del fatto. E mi sono trovato di ritorno a questa sepoltura che ho curato per 5 anni all'interno del deposito delle memorie di Chioggia. C'erano sempre quei drappi sdruciti color granata del Torino e della Clodiense, dell'Unione, Chioggia Sottomarina. C'è uno stadio intitolato a loro e che possano riposare in pace. E i fratelli Ballarin. giocato una partita. Vai. Mi sposto di poco, e arrivo alla Serenissima, quindi procedo sulla Romea fino ad arrivare alla Serenissima. Siamo a pagina 46 della lettura dal Corriere della Sera. Do questa continuità a proposito di giardini, di depositi della memoria, ma in questo articolo diamo uno sguardo all'architettura e alla fotografia di giardini bellissimi che troviamo nella splendida città di Venezia. È una raccolta di immagini che danno un'altra visione a quella che è una delle meraviglie assolute del mondo, ed è la verde Venezia. Noi abbiamo le immagini delle lagune, abbiamo le immagini pittoresche di un'architettura unica e speciale, ma non conosciamo esattamente quella che è una parte invece di terraferma che è bellissima, con una sorprendente biodiversità, spesso purtroppo inaccessibile, tranne che in questo lavoro che viene riportato con la veduta di una villa veneta con figure e anche con immagini non solo legate all'arte ma vere e proprie. È il nuovo libro di Totò Bergamo Rossi, I giardini di Venezia, edizioni Marsiglio, un libro che è veramente un album di fotografie. Alcune sono riportate ed abbinate, ho citato in precedenza un lavoro di Benedetto Cagliari, che è il fratello di ben più celebre Paolo Veronese, però insomma anche il fratello minore, poi così minore insomma da queste immagini non azzarderei definirlo. E trovare uno sguardo diverso a una Venezia con le sue architetture, con la bellezza della sua storicità, con la sua nobiltà, la principessa dell'Adriatico, e trovarla con uno sguardo diverso dove i protagonisti sono questi giardini, non è unicamente una pittoresca cartolina, ma è qualcosa di onirico e concreto al contempo. È un lavoro, come ho detto, di Totò Bergamo Rossi con Marco Bai e le fotografie di Marco Valmarana. È un'esplorazione, un'esplosione floreale dei giardini della laguna, tra orti, parchi, dimore private, chiostri e, come ho detto, una sorprendente biodiversità che spesso, essendo private, è inaccessibile. Ciò non toglie che vi sono aperture e rassegne dentro queste località, non dico location perché mi sembra veramente di portare una brutta parola a cotanta bellezza. L'articolo è a pagina 46 della lettura, è allegato a fotografie bellissime, la lettura è in edicola per tutta la settimana, è il supplemento del Corriere della Sera, ve lo consiglio. E intanto vi lascio in buona compagnia con un po' di musica. Dopo poi vi racconto da chi questa formazione californiana prende il nome. Vi dico solo che il progetto si chiama Sukia. Yeah. adesso è cambiato tutto anche in quell'ambito, ma era una delle eroine di un certo tipo, non mi vergogno a chiamarla di letteratura, perché adesso si leggono delle robe che anche le collane di Edizioni Corno, con Succhia, con Cimiteria, con Zora, con Iacula, erano protagoniste a loro volta di queste immagini che definirei softcore con quello che si vede adesso, ma che certamente hanno regalato tante emozioni. Pensate che questo gruppo californiano ha deciso di chiamare il proprio progetto, che si occupa di cocktail music con chiari riferimenti a queste sonorità seppur elettroniche, molto di colonna sonora anni 70, l'hanno chiamata come questa eroina, appunto, Succhia. Il nostro proibito, erano le nostre evasioni, era il nascosto, erano quelle pubblicazioni che si trovavano dai barbieri, soprattutto nei quartieri di periferia o di paese, ed era... che a ripensarci... È una visione anche questa completamente diversa rispetto a quello che in età adolescenziale ci si ritrova. L'ho definita letteratura perché, pensando a certi aspetti letterari, perché no, ci può stare tranquillamente anche questa, anzi... Procediamo allora con le immagini, no? Abbiamo fatto una piccola divagazione a fumetti, procediamo con le immagini. Parole meravigliose, intraducibili, che potete studiare e ripetere ad alta voce o ritagliare. È il graphic di tutto Libri, come vi è un graphic anche dalla lettura del Corriere della Sera. Ora anche nella pagina centrale di tutto Libri della Stampa vi è questo laboratorio di immagini, chiamiamolo così, tra la letteratura e l'immagine, la particolarità. Ad esempio, per dare un'iconografica immagine a determinate caratteristiche vi sono modi di dire e anche le relative, come ho detto, visioni a fumetti o in maniera grafica qui riportate. Siamo in Germania. Der die Erzbenzballer hin. Ecco, questa è la pronuncia non certamente esatta e la traduzione però è il contapiselli. È la figura più simpatica e più pignola. Beh, per definire una persona così pignola che qualcuno ossessionato dai dettagli e dal controllo, no? È un po' il furio di Bianco, Rosso e Verdone, di Carlo Verdone stesso. Ecco, quando uno è preciso, pignolo, così ossessionato dalla precisione, dalla pignoleria, è così definito. E l'immagine come per contare i piselli dentro ogni baccello. Questa è una delle tante. E poi c'è, oltre questo, anche il Der Feierabend. Scatta quando finisce l'orario di lavoro. Letteralmente è festa serale. Richiama un po' l'happy hour, ma è proprio la pacca sulla spalla a se stessi per la giornata produttiva. Noi non l'abbiamo il termine per questo aspetto, quando ci vogliamo autopremiare. Da lì inizia la vita privata. Una volta cascava la penna, noi diciamo che ci casca la penna di mano alle 17, ok, però non c'è qualcosa che poi ci dà una sorta di premio. Ora si è scivolati più in là, ma l'extra orario e telefonate potrebbero essere prese come segno di maleducazione, giustamente. Quindi dopo il lavoro chiaramente c'è la vita privata, e qui troviamo un bel boccale di birra con immerso un cellulare, come per dire ok, stai buono anche tu, non disturbare, ed è chiamato l'happy hour der Feierabend, che non è esattamente l'happy hour, ma è il premietto che ti dai dopo una giornata produttiva di lavoro, almeno sono le modalità teutoniche di definire questi aspetti. Poi c'è il fungo fortunato, favorito dalla sorte, quell'amico o amica a cui va sempre tutto bene. Sulle parole crociate lo troveremo come il ragazzo di Jovanotti, metaforicamente Bip Bip che fa lo slalom tra le mille trappole di Willy il Coyote, e qui der Glückenspilz è il fungo fortunato per definire quella persona veramente nata con la camicia. Magazine riportano lo speciale Salone del Libro di Torino 2024. Io ne ho selezionato uno e andrò così sfogliandolo al volo per tutto libri della stampa. È di Torino, per cui insomma è quello che ho identificato per darne un sunto abbastanza immediato. Per quanto riguarda quello che come analisi personale ho rilevato, ecco che sono usciti libri in tutto il corso dell'anno, sapete, arriviamo delle volte anche con Silvia a dire ma questo è un momento, che ma è un periodo, ecco, negli ultimi 15 giorni, almeno per quanto riguarda le mie selezioni, ho trovato qualcosa che porterò al Voltiamo Pagina, che mi ha dato un vero piacere di lettura. Intanto il ritorno a Torino, Rushdie con Kneif, che ha già presentato anche Silvia al Voltiamo Pagina, Scotland Yard ed io parlando di calcio al Valentino. Nel 1999 l'autore di Kneif, Coltello, fu invitato dall'università, l'amico e traduttore ricorda quei giorni in città. Poi l'audiolibro Goliarda Sapienza, un romanzo troppo classico, nessuno capì la sua gioia, l'arte della gioia, lei è grandissima, eh? C'è anche diversi approfondimenti per quanto riguarda autori che vorrei portare, come dall'Islanda, l'orfanilità alla faccia di Paul McCartney, questo è un papabile per le prossime edizioni del Voltiamo Pagina. Per quanto riguarda John Kalman Stefansson, esplora la distanza fra infanzia ed età adulta. Dai Balcani, per chi viene dal Kosovo, vergognarsi è il minimo, è il libro di Paitin Statovci, che se vi ricordate ho presentato per quanto riguarda qualche settimana fa nella rubrica letteraria. Sto continuando per quanto riguarda ospiti, ovviamente non è un programma talmente esteso che avete bene la possibilità di consultare in maniera più tranquilla. Una grande anteprima per i ragazzi, l'Odissea e storia di tutti i giorni, quindi insomma un festival molto molto pieno come tutti gli anni e come tutte le stagioni per quanto riguarda il Salone del Libro di Torino, anche l'edizione 2024. Musica, torniamo tra poco con i magazine, ci sarà una sorpresa anche con a proposito di letteratura, con un'incursione del nostro Sergio Fanti, eh? A tra poco, buon ascolto. I am a very stylish girl. Di nuovo in diretta, seconda metà anni 70, oggi qualche passo indietro, beh, come di consueto nei magazine, in occasione di una presentazione letteraria dove protagonista è una rassegna, una saga, Le Guerre Stellari. Allora, perché sono andato così indietro? Perché per quanto riguarda Guerre Stellari, io ancora alle scuole elementari vedevo i miei compagni che scambiavano figurine, che portavano album e siccome anch'io ho sempre avuto la passione delle figurine, mi interessai. Ovviamente figuriamoci se i miei genitori pensavano di portarmi al cinema per vedere questa nuova sensazione per quanto riguarda sia l'immagine che l'aspetto avventuroso, no? Star Wars, Le Guerre Stellari. Non ci ho fatto poi sta malattia perché tanto ero abituato a questa sorta di privazioni, però insomma la curiosità mi rimaneva anche essere escluso da queste raccolte, un pochettino insomma così. Beh, passa il tempo, mi rimane questa idea di un aspetto di perdita, arrivo ai 16-17 anni, sono quegli anni in cui le TV riescono ad acquistare i diritti e portare anche rassegne del passato, come in questo caso Le Guerre Stellari, dei grandi successi del passato sul piccolo schermo. Stranamente non ho allenamento, non ho nessun impegno, dico questa sera frittatona di cipolle, mi metto davanti alla TV, portano Guerre Stellari, finalmente posso restare tranquillamente e ammirare questo capolavoro assoluto. Beh, vi posso assicurare che dopo 20 minuti quello che è stato per me tra Luke Skywalker, quello che respirava in questo modo e tutti questi androidi, beh, scusate con tutto il rispetto, però per me Guerre Stellari è una cagata pazzesca. É certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a chica do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Que fez o samba embolar? Quem foi? Que fez o corpo samba? Quem foi? Que fez a ema gemer na boca? Quanto foi? Foi 500 reais. Diz quanto foi? Foi 500 reais. Olha, Tião, oi, fosse. Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Diz quanto foi? Foi 500 reais. Diz quanto foi? E foi 500 reais. E já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela. Ora io mi scuso intanto perché quando c'è un consenso popolare così esteso, c'è ufficialmente un contenuto artistico così importante, il problema non è né il contenuto artistico e neanche chi segue tutto ciò, il problema sono io che non sono riuscito ad arrivare ad amare Guerre Stellari, Star Wars, chi più ne ha più ne metta, insomma il problema è mio, come spesso dico quando qualcuno dice ma come quello, evidentemente ti manca qualcosa, c'è qualcosa che non va, pensaci. E quale miglior possibilità attraverso una pubblicazione, un libro che dà filosoficamente uno sguardo di parallelismo con la realtà, con un aspetto contemporaneo a quello che è il fantasy e la fantascienza di Guerre Stellari. Ne parliamo non solo con Sergio Fanti che è qua al telefono con noi. Buongiorno e grazie Sergio. Sì, ciao, buongiorno a tutti. E intanto che tu hai così preso il tuo caffettino, io ho dato un'anticipazione, non so se condivisibile o meno, ma tu stesso mi hai detto: io non ne so mezza di Guerre Stellari. Sì, sì, guarda, ma ho ascoltato quello che tu hai detto e purtroppo condivido anch'io questo ostacolo che ho anche verso la forma di certe rappresentazioni, perché spesso quello che ci funge da muro, da ostacolo per usufruire di una narrazione, è la forma. Sì. E quindi anch'io sicuramente ho visto delle cose, ma poi non sono mai stato raggiunto. Aggiungo però che con tutto questo proliferare, soprattutto dopo la rivoluzione digitale, di piattaforme in ogni dove, è impossibile essere aggiornati sui contenuti a 360 gradi, perché sono veramente troppi. Cioè, quando ero bambino io c'era un unico canale TV, poi sono diventati due. Sul terzo siamo andati in confusione. E già sul terzo siamo andati, no, nel senso che c'era meno roba da seguire, quindi anche la mente poteva focalizzarsi e appunto seguire. Qua si è sballottati da una cosa all'altra ed essere... cercare di ricavare da sé un essere enciclopedico è veramente molto faticoso, perché poi non va in profondità a nulla di ciò che segui, cioè sai che c'è, ma non riesci non poi riesci poi ad andare in approfondimento. È il problema della velocità, sì, e di tante, sì, cose, sì, di proposta, come hai detto giustamente, di forma. Allora, intanto questa presentazione di, tra l'altro, chi usa lo strumento digitale per diffondere queste lezioni di filosofia, che io non conoscevo, che risponde a nome di Matteo Saudino. Sì, okay. Matteo Saudino è un professore di storia e filosofia di Torino, insegna nei licei, e un giorno per poter far vedere le lezioni a dei ragazzi e delle ragazze che non erano presenti, pensò di filmare direttamente la lezione e di mandargliela. E gli alunni hanno consigliato immediatamente di aprire un canale YouTube, e cosa che lui ha fatto, e da allora, ma è una cosa abbastanza recente, perché sicuramente è a cavallo della pandemia, non prima, da allora lui ha prodotto centinaia di contenuti, moltissimo sulle cose che ama, ma anche comunque su tutto lo scibile filosofico, e parallelamente ha scritto alcuni libri che appunto mirano a rendere divertente la filosofia e ad attualizzarla. Quindi tant'è vero che lui, uno dei libri che ha scritto è La filosofia non è una barba, per esempio. Già questo si presenta bene. È sicuramente già più simpatico di quello che fa fisica con i capelli sparati in aria. Forse per la materia, ma sicuramente è la materia, non è il personaggio, che per me fisica era una cosa incomprensibile. Ecco, sì, per sì, cui sì, sì. Probabilmente no, non è tanto, diciamo, il personaggio. Che lui carità. Proprio, io lo ascolto spesso, lui ti fa vivere l'autore, ti fa vivere il disordine dell'autore, la vita dell'autore, tutti i problemi che ha avuto, e poi c'è anche il pensiero, però in effetti opera una sorta di contestualizzazione nel tempo e quindi cerca di restituirti un pochino lo spirito di quel tempo. Sì. E questo secondo me è molto importante, perché certo, va poi trascende la solita trattazione manualistica che dove ci è nato. Dove era in presentazione lui? Lui era in presentazione alla COP Ambasciatore. Lui ha scritto un libro con due suoi prima allievi e poi adesso coautori su Star Wars e la filosofia. Cioè, ha detto, siccome Star Wars è la saga per eccellenza che tratta del bene e del male, perché non ricollegarla ai giusto grossi pensatori del pensiero? Giusto. Anche perché in effetti noi crediamo, tendiamo sempre a vivere l'attualità e a dire non è più niente così, è cambiato tutto, ma al fondo delle cose non è cambiato niente da 3.000 anni, da 4.000 anni, da sempre. Eh beh, è una corrente di pensiero anche questa che dà una visione diversa, ma nello stesso tempo anche corsi e ricorsi storici, c'era chi diceva. Perché no? Intendevo i problemi appunto di bene e male, tutto quello che va sotto il nome certo. di etica, sono problemi ricorrenti che c'erano anche i bambini quando debbono disputarsi un giocattolino. E poi ce l'abbiamo noi con i giocattoli da grandi, e quindi ha voluto abbinare ad ogni personaggio di Star Wars, che è un'opera monumentale, perché ho scoperto che sono tre trilogie. Sì, una cosa che ti fa odiare la saga, la formula saga in generale. Però io amo le forme brevi, quindi infatti, figurati. Non è però su YouTube ho trovato che c'è una sinossi di Star Wars. Ok. E 9 film in 25 minuti. Okay. Ascolta, possiamo ascoltare la tua intervista? Intanto? Ma volentierissimo. E poi ci ritroviamo per i saluti. Sono in compagnia del professor Matteo Saudino, che è la dimostrazione di come si possa essere uno youtuber di successo facendo cose assolutamente degne e assolutamente, perdonatemi il termine, utili, divulgando cultura, divulgando sapere, divulgando soprattutto curiosità. Sono col professore in occasione dell'uscita di Star Wars e la filosofia, proprio oggi 4 maggio Star Wars Day, in quanto questo libro ha unito la filosofia con alcuni personaggi di Star Wars. Chiediamo al professor Saudino come. Allora, questo è un progetto divertente e ambizioso allo stesso tempo. L'idea è quella proprio di unire la galassia di Star Wars, che rappresenta la saga cinematografica sul bene e il male per eccellenza, con un'altra galassia, quella della filosofia, da Socrate appunto a Angela Davis, dunque gli autori più contemporanei. L'idea è appunto quella di non fare un libro sulla filosofia di Star Wars, raccontando appunto la filosofia della saga, ma raccontare i personaggi e gli ambienti della saga in chiave filosofica, cioè vedere a quale filosofo si può collegare Socrate, a quale filosofo collegare Darth Vader, Rey oppure Obi-Wan Kenobi. E così abbiamo intrecciato la morale kantiana appunto con Obi-Wan Kenobi, abbiamo intrecciato Palpatine con Platone e ancora abbiamo mandato Luke Skywalker dallo psicologo, lo abbiamo fatto analizzare da Freud per vedere complesso di Edipo o attesa del padre a partire dal complesso di Telemaco. Questo è un po' l'obiettivo, di divulgare la filosofia a partire da una dimensione pop, che poi vuol dire popolare, è bello non riscoprire la parola popolare, con la filosofia che invece è una disciplina che nella storia non è stata popolare perché era riservata tendenzialmente a pochi, ma per noi la filosofia deve essere per tutti. Infatti, come diceva lei, le tematiche che emergono nella trilogia di Star Wars sono eterne e quindi si riconnettono alle problematiche che hanno sollevato i filosofi. Certo, faccio ancora un paio di esempi. Pensiamo ai robottini, a C3PO, oppure D2R2. Abbiamo il tema dell'intelligenza artificiale, della coscienza robotica ante litteram. I due robottini compiono delle scelte, dunque sono etici, sono anche intelligenti. Ne parliamo nel libro. Oppure ancora pensiamo ad Han Solo, no? Il personaggio di Han Solo, che è sempre in bilico tra scegliere se continuare a fare l'amante alla Kirk, cioè vivere l'attimo, essere ribelle, pirata, anarcoide, oppure se scegliersi impegnarsi al fianco della resistenza contro l'impero. E sono tutte tematiche etiche che possiamo noi dedurre proprio dalla saga di Star Wars. Anche perché voi il manuale filosofico serio, diciamo, l'avete già fatto. Sì, è appena uscito per la terza, il manuale Prima Filosofare, che speriamo possa essere adottato in molti licei d'Italia. Perfetto, grazie mille, professore. Grazie a voi. Grazie a te, Sergio, anzi è illuminante, ma ha incuriosito anche a me, che non sono esattamente un tifoso di Star Wars, però... No, ma al di là di Star Wars, lui è un personaggio veramente bello. Interessante, perché appunto è molto popolare, non è uno che vuol fare il professore, che fa vedere che sa delle cose che tu non sai, anzi, tende a renderti ce l'opera che sembra indecifrabile del grande pensatore, te la rende terra a terra, e ti fa capire i concetti base, dopodiché se vuoi approfondisci, ma insomma è proprio veramente è popolare, ecco, lui ha voluto enfatizzare nel termine positivo. Più proprio positivo, ecco, sì, più sì, propositivo. Sì, sì. Io Sergio ti ringrazio tantissimo, procedo con i saluti, li facciamo assieme, certo. Diamo appuntamento mi a domani. Saluti. Domani vi saluta anche Sergio. Vi saluta anche Sergio, ecco, lo ribadisco. Domani con il Mood Groove parleremo di bellezza e chi meglio di me, Sergio, può fare questa introduzione. Ma certamente. Ma come no? Vi lasciamo con l'Edipeo enciclopedico. Esatto, quindi sarai totalmente autobiografico. Parolacce e insulti nella storia. Questo è il tema invece dell'Edipeo enciclopedico, ok? Grazie Sergio, okay. Ciao. Ciao, quindi, ciao. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.